Ciao bambini, ben arrivati. È Ciao! stato lungo il viaggio? No! Possiamo chiederle di presentarsi? Io sono Giuseppina Raffaelli e sono cotitolare con mio fratello Paolo dell'azienda Maso Salengo di Volano. L'azienda agricola Maso Salengo, nasce dall'idea di mio bisnonno di produrre marzemino. Lui ha iniziato agli inizi del Novecento, il secolo scorso, più di 100 anni fa. Lo vendeva sfuso e mi ricordo mio papà che mi diceva che una volta non si vendeva in bottiglia, si andava ai mercati, era un discorso più di vendita in casa. Su questo portone si metteva un ramo di edera e quando la gente passava sapeva, vedendo questo ramo di edera, che si vendeva il vino fatto in casa. C'erano altre due o tre cantine in paese che si chiamavano Raffaelli. C'erano anche tanti privati che si facevano il vino in casa. È una tradizione che in paese c'è sempre stata. Per lei, quali sono le cose importanti per realizzare i propri sogni? Sicuramente determinazione, ma la passione soprattutto. La passione per quello che si fa ti porta a buttarti a capofitto in un'attività, in un progetto che credi che valga la pena. Io ho fatto inizialmente tutt'altro studio, non avevo neanche immaginato di lavorare in azienda con mio papà, perché parliamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, era più un settore, un lavoro maschile, fatto da uomini. Che cosa faceva una donna in un lavoro del genere? Non era il lavoro appunto tipico di una donna al venire a lavorare in cantina o in campagna o commercializzare vino. Mi sono resa conto di questa passione solo iniziando a lavorare. Mi è stata trasmessa da mio papà. Amava moltissimo questo lavoro, tornava a casa sempre stanco morto la sera, ma felice di quello che aveva fatto. Respirare questa passione nel mio papà sicuramente ha contribuito a farla nascere e crescere dentro di me. Ci è voluta molta preparazione per poter essere credibile di fronte agli altri. Poi, per fortuna, in questo mondo enologico di vino è aumentata molto la parte femminile e credo che possa dare il suo contributo anche la donna e vedo che negli ultimi anni è anche molto positivo, ecco. Nello specifico, avere un'attività in proprio ti sacrifica tempo libero e anche della famiglia per poter dare di più alla tua azienda quando si lavora in proprio. In un paese magari anche piccolo, questo ti sacrifica un po' di più, però è molto bello perché conosci la realtà del paese, conosci il territorio, conosci anche la storia e questo ti rende anche grazie al lavoro che io faccio, che viene dalla terra, le radici molto più profonde nel territorio in cui noi siamo. Nel corso di questi 50 anni, quando eri piccola tu, come loro, ti ricordi com'era il territorio? Com'era la terra? Ce n'era di più? È cambiato? Per quello che mi posso ricordare, il paese era molto più piccolo, c'erano molto meno case. Sotto la statale, dove a voi avete adesso la scuola elementare, c'erano molto meno case, c'era molta più campagna. C'erano molte, molte meno macchine. Ho un ricordo di quando avevamo la cantina, non qui dove siete oggi, ma nella cantina vecchia, nel paese vecchio, vicino alla chiesa di San Rocco. Ho un ricordo che con mio nonno, quando magari durante l'estate la mia mamma e papà lavoravano, allora rimanevo lì col nonno mentre lavorava, fuori dal portone c'erano come due sassi che finivano il portone, uno più piccolo e uno più grande, e io e mio nonno ci sedevamo lì in silenzio, aspettando e guardando le macchine che passavano, che però erano molto poche perché c'erano molte meno macchine, come dicevo prima, no? Però stavamo lì in silenzio, questo bellissimo ricordo con mio nonno, anche se non parlavamo tanto, assieme a lui mi bastava così, aspettando qualche macchina che passava, guardarla passare, ecco. Quindi sicuramente un paese molto meno frequentato di quello che è adesso, si poteva correre, giocare per le strade. Quando ero piccola, come voi, o anche un po' di più di voi, in quarta, quinta elementare o anche alle medie, ricordo che l'estate, la sera, dopo cena, si usciva di casa, ci si trovava con i bambini, con gli altri bambini del paese. E si giocava assieme nel cortile di una casa piuttosto che magari per strada o magari andavamo all'oratorio e nel piazzale dell'oratorio giocavamo lì. Ma com'è cambiato il rapporto con la terra? Con la terra, forse eravamo più liberi di andare e girare senza problemi anche da soli. Molte volte durante le vacanze partivi il pomeriggio e andavi tutto il pomeriggio a giocare in bicicletta giù per campagna da soli, senza genitori, senza nessuno. Oppure seguivo il mio papà, il mio nonno e i miei zii che andavano in campagna e io, mentre loro facevano qualsiasi lavoro, io magari ci giocavo con il papà del Mattia a volte, e a volte invece da sola perché non c'era Lorenzo e quindi si giocava in campagna, ma semplicemente guardandoci intorno, senza avere per forza un qualcosa in mano da poter giocare, anche guardare le piante, un muro, si inventava qualcosa guardandoci intorno. E oggi, secondo te, dal punto di vista agricolo, cioè è trasformato e cambiato il paesaggio? Abbiamo perso molta campagna, ma è cambiato anche il modo di sentire questa, di rapportarsi, di relazionarsi con questa campagna dal punto di vista proprio sentimento della terra, oltre che dal punto di vista agricolo, lavoro della terra. Ma più che cambiato, sto vedendo le generazioni dopo di me, per dire, un ritorno un po' alla campagna. Lo vedo da parte degli adolescenti che scelgono scuole che portano a questo lavoro, poi magari cambieranno strada, però c'è una ricerca dei lavori che portano a stare all'aria aperta, a vivere proprio a contatto con la natura. Quindi sicuramente c'è un ritorno. Forse la mia generazione è stata più quella che è un po' scappata da questa realtà, da questa sì, realtà. E adesso c'è un po' un ritorno e questo mi fa piacere perché è bello, è proprio bello. Poi il mio lavoro è molto vario perché parte dalla campagna, poi c'è la trasformazione in cantina e poi si va avanti con la commercializzazione, quindi è molto vario e molto lunga la filiera e cambia da stagione a stagione. Dimmi. Ora, qual è il suo sogno? Quali sono le tue aspettative? Beh, il mio sogno è quello, penso, di chiunque abbia un'attività, di riuscire a far ad apprezzare il proprio lavoro e, perché no, a poterlo fare, a trasmettere alle generazioni successive. Potrebbero essere le mie figlie, come magari le mie nipoti, o magari qualcun altro, però comunque ad apprezzare il lavoro che facciamo. Ecco, questo un po' è quello che mi aspetto e che spero, mi auguro. So che le tue figlie continueranno questa attività. Allora, su questo aspetto non voglio mai pronunciarmi, perché non ho mai voluto condizionarle, ho sempre voluto che loro scelgano il lavoro e il desiderio che avevano loro di fare nella vita. Non le ho mai spinte verso una scuola piuttosto che un'altra e un lavoro verso un altro. Le scelte che hanno fatto entrambi sembrerebbero portare su questa via, però finché non inizieranno a lavorare, non lo so, magari trovano qualcosa dall'altra parte del mondo che gli piace di più e non sarà qui. E io sono felice per loro, ecco.